quando entra il sassofono blu. Ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la sputano senza poesia. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile, lui quella sera era un lampo e guardarlo era come uno shock. E tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore disperato. Quella volta lei lo perse di vista, disperata lo aspetta ogni sera al sassofono blu. Una sera da lupi la stava piangendo, quella sera il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno shock. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore sperà. Oh.